mami, dolce come te, mami, dolce come te, mami. E non lo so, niente più forte di te, mami. Testa rossa Ferrari, vodka sesso Martini. Voglio una sexy bimba, mami, sulla spiaggia di Miami. Io e te senza problemi, sesso fino a domani. Dimmi cosa succede, tu mi prendi in contropiede. Sexy donna, corta gonna, non ti conosco, non mi importa. Lo so, io sono vago, non ti dico dove vado. Non sai che lavoro faccio, cosa faccio, nuovo intralazzo. Oh mami, tienimi, non perdi tempo, estate, svestiti. Il mio futuro ancora, mostrami, ti sto golletto ancora qui così. Oh Gari, Bugatti, chiamami come vuoi domani. Io e te sopra sotto ai pari, muoviti così tra le coperte e le mani. Tu sei una stella S.A. Stella N.T.I.S. Nuda senza una veste, notti non sono perse. Mami, dolce sexy, mami, sono malvagio. Mami numero uno, cadizze. Il mio nome, il mio flow, la tua gente uccide piccole bambine. Questo è solo il mio stile. Voglio una milf per l'estate, devi crederci. Antonella Clerici, Antonella Clerici. Voglio una milf per l'estate, devi crederci. Antonella Clerici, Antonella Clerici. Voglio una milf per l'estate, devi crederci. Antonella Clerici, Antonella Clerici. Voglio una milf per l'estate, devi crederci. Antonella Clerici, Antonella Clerici. E se ci pensi, motherfucker, questo è Big Dad. La vita, motherfucker, come piace a me. Io non ascolto, motherfucker, questa gente. Io sono un vero motherfucker, sono un vero motherfucker. Yeah, guardami con i tuoi occhi, baby. Sono quello che tu non vedi. Sono più di quello che tu credi. Non ci credi, ma ci provi. Bevo vodka martini, fuori di testa come bambini. Io e te, tu e me, solo amanti, ahimè. Non dire niente al mondo e beh, non dire niente di me. Estate porta lontano, dimmi allora. Allora che c'è? Noi siamo pazzi, il calore uccide la ragione. Qui niente vesti, sul corpo gocce di sudore. Il tempo passa, ma qui è tutta un'illusione. Lei non è casta, aspetta la giusta conclusione. Baby, niente ti ferma, situazione. Pericolosa donna, non perdi mai l'occasione. Voglio una milf per l'estate, devi crederci. Antonella Clerici, Antonella Clerici. Voglio una milf per l'estate, devi crederci. Antonella Clerici, Antonella Clerici. Voglio una milf per l'estate, devi crederci. Antonella Clerici, Antonella Clerici. Voglio una milf per l'estate, devi crederci. Antonella Clerici, Antonella Clerici.